Siamo al telefono con Fede Dragogna dei Ministri. Grazie mille Fede per essere qui con noi. Ciao a tutti. Allora, giovedì 31 marzo è iniziato il vostro tour che anticipa l'uscita del nuovo album che arriverà a maggio, Giuramenti. Com'è stata la prima data? Com'è stato questo nuovo inizio sui palchi, tra l'altro senza sedie? Beh, non solo senza sedie, ma con una bolgia umana, una specie di rissa in cui nessuno si faceva male, come sono poi i concerti. Quindi è stato bellissimo. Penso che non avremmo potuto immaginare una prima data più teatrale della data che deva sostanzialmente la fine dello stato d'emergenza, e quindi è stato ancora più bello quello, perché effettivamente a un certo punto nel locale tutto pieno ci siamo resi conto che tutti ci saremmo ricordati dove avevamo passato la fine dello stato d'emergenza, no? Beh, è un buon modo anche quello, insomma. Assolutamente. E comunque, boh, è proprio per fare questo tipo di cosa, la cosa che ci pensavo proprio appunto appena è finito, per fare questo tipo di cosa l'unico modo è farla così. Capisci che proprio anche quando si parlava, mi ricordo, di concerti in streaming o cose del genere, se tu tieni le persone lontane viene semplicemente un'altra cosa. L'unico modo per fare venire questa anche gioia e eccitazione che poi dura tutti i partecipanti fino al giorno dopo è farla così. Quindi insomma è stato un bell'inizio. Tanto il tour passerà anche da Bologna il 24 aprile. Tra l'altro sappiamo che c'è stato un piccolo cambio di location. C'è stato un piccolo cambio di location in Campania, mannaggia, perché si passerà dallo SMAV al Duel di Napoli, in cui non abbiamo neanche mai suonato e siamo molto contenti di andarci. Saremmo stati più contenti di andarci in un'altra occasione, e non perché sostanzialmente lo SMAV non riesce a riaprire. Allora, mandiamo un grande abbraccio allo SMAV, sperando che poi si riesca a tornare. Speriamo davvero, perché ogni palco che si spegne è qualcosa che si impoverisce proprio. Tra l'altro, musica, crisi del settore musicale, difficoltà del settore musicale è anche un po' il tema del vostro ultimo singolo Scatolette, che è uscito da poco. Insomma, cosa parla questa canzone? Se vuoi anticiparlo un pochino, la porterete certo, ovviamente sul palco poi. Sì, l'abbiamo suonata appunto nella prima data per la prima volta. C'è da dire che, guarda, noi cominciamo anche storicamente con il nostro primo disco che si chiamava I Soldi Sono Finiti e aveva un euro in copertina. Mi viene da dire che siamo letteralmente già, abbiamo cominciato a fare quello che facciamo già nella cornice di una crisi costante. No? Quello che è successo dopo effettivamente all'industria musicale e non solo è stato che l'avvento, anche banalmente solo di certe tecnologie come il digitale al suo massimo livello, ha cambiato proprio lo scenario, l'economia, no? Quindi il problema, al di là degli intermediari che abbiamo oggi, quindi vari Spotify e compagnia bella, il problema è proprio un problema tecnico. Come si viene fuori da questa cosa? Come può vivere un musicista se la musica è gratuita? E come può vendersi a quel punto? Ecco, tutte queste cose sono le cose di cui parla Scatolette, che è stato anche un brano un po' per aprire a tutto un discorso su questo, sia nel video dove andiamo a consegnare a casa dei fan noi direttamente della musica, e andiamo a consegnare delle canzoni che si chiamano Canzoni Ombra, che non saranno su nessun servizio di streaming, che le stiamo già mandando attraverso newsletter e quindi stando fuori da qualsiasi piattaforma streaming. Più che essere una provocazione, è proprio anche un po' un gesto di libertà di cui avevamo una grande voglia, ecco. E anche un po' un gesto d'affetto nei confronti dei fan. Tra l'altro io l'ho già ricevuta, lo ammetto, ho la newsletter. Ah, okay. E ho ricevuto la prima traccia ed è un'idea. Spero che ti sia piaciuta. Molto, molto. Tra l'altro questa cosa che è una cosa intima, perché diciamo non andrà su Spotify, non andrà su YouTube. Pensate di farle dal vivo queste canzoni, alcune di loro? Credo di sì. Beh, le stiamo tra l'altro selezionando in questo periodo. Alcune sì, no, non abbiamo ancora benissimo in mente quale sarà, chiamiamolo lo step 2 di questa cosa, però è così bello che ci sia una cosa di cui che chiediamo di non ricondividere ai fan, di non ricaricare su YouTube e così, e quindi rimane l'esatto contrario di tutto quello che sono i social, no? Cioè una cosa preziosa, segreta, gratuita, che ognuno si vive a modo suo, e dopo, ecco, magari si potrebbe a un certo punto farle in dei concerti dove allora quel senso di comunità torna ad essere un qualcosa che si sta condividendo, una cosa che solo quelli che sono lì sanno. È molto bello, per noi è proprio, cioè, questo riuscire a pagare, come dire, l'affitto e però riuscire a fare le cose così è un po' la nostra regola da sempre. Ecco, il mondo tra l'altro in cui la musica pretende di far uscire un singolo dopo l'altro a discapito delle uscite di album, perché ormai si parla di singoli che vengono fuori in continuazione, questa è proprio una roba all'estremo opposto di quello che vorrebbe l'industria discografica del momento. Sì, e ti dirò di più, al di là della questione che ovviamente è un po' di fondo, chiamiamola etica di questa cosa, però al di là di quello che dicevi tu anche dei singoli, quel metodo di funzionamento che abbiamo visto ad esempio negli ultimi 2 anni del oh mio Dio, singolo il giovedì notte, poi dura 2 settimane e dopo è tutto finita lì, in continuo, è terribilmente noioso, perché poi sono tutte robe che si inseguono di sound una dopo l'altra, tutte cose che devono stare in quella playlist o in quell'altra, che palle, no? Ecco, la musica non può diventare questo, non può diventare una cosa noiosa, cazzo. È proprio il contrario del suo ruolo, della musica in generale. Assolutamente. Torniamo sempre con Federico Dragogna dei Ministri, che ricordiamo intanto suoneranno il 24 aprile all'Estragon di Bologna. Tra l'altro c'è questa cosa strana: di solito un tour promuove e insomma si fa dopo l'uscita di un album, voi lo fate prima perché il 6 maggio uscirà Giuramenti. Come mai questa scelta di fare il tour prima dell'uscita dell'album? Ma è stata proprio una scelta data dal fatto che volevamo suonare nei club, molto semplicemente. Dato che più o meno, appunto, per tempistiche varie, anche tempistiche di materie prime, tipo riuscire ad avere il vinile pronto e così via, diciamo inizio maggio era un, diciamo, non dico l'unica data papabile, però più o meno, e dato che non fai uscire un disco mentre stai facendo un tour, abbiamo pensato di farci tutto questo tour ad aprile nei club e poi il disco, perché certo uno dice si potrebbero fare i club in autunno dopo, cose del genere, presentarli in estate, però volevamo subito dare un segnale rispetto al ritorno nei club. Cioè era importante per noi questo, sia per i club e la salute dei club, sia proprio per ritornare, cioè non aver paura e stare schiacciati l'uno contro l'altro indoor, no? Cioè in una sala da concerto. Quello era fondamentale per noi e quindi abbiamo scelto questa strada, questa successione di cose. Fantastico. Giuramenti quindi uscirà il 6 maggio. Di cosa parla un po' l'album? C'è una sorta di fil rouge di tema principale o sono magari brani ognuno per sé? Ma allora, guarda, tutto il monte canzoni fa parte praticamente tutto della stessa session, sia di registrazione sia in parte di composizione. Giusto Numeri, che è contenuta nell'album, è arrivata un po' in un secondo momento, quindi anche i pezzi di Cronaca Nera e Musica Leggera dell'anno scorso erano contenuti in questa grande session. Abbiamo deciso nel caso di Cronaca Nera e Musica Leggera di volevamo fare uscire qualcosa, allora abbiamo riunito i pezzi che si assomigliavano, che erano coerenti tra di loro per una pubblicazione da 4 pezzi, e poi ci sono tutti gli altri che sono appunto l'album, e l'album è molto elettrico, meno rabbioso più che altro, proprio perché la parte rabbiosa, un po' acre, è stata messa nell'EP, e però per questo motivo, per esempio, il CD che pubblicheremo dell'album nuovo avrà dentro anche l'EP, quindi uno se si prende l'album in CD si trova dentro anche i 4 pezzi dell'EP. Ottimo. Esattamente, e qui a quel punto probabilmente sul CD, che è anche una cosa che ci piace, uno avrà anche, no, questa visuale più insieme su tutto il materiale. È un album molto comunque complesso, molto epico, ha tanti pezzi molto con aperture proprio molto epiche, e insieme però è di un'epica molto privata, è un'epica fatta di piccole storie, tutto sommato, mi viene da dire, quindi ha comunque un respiro, ha il respiro un po' del noi, ma senza usare il noi. È anche un po' misterioso questa spiegazione, quindi non vediamo l'ora che arrivi Giuramenti, appunto, al termine del tour che, ricordiamo, è partito da Treviso, poi Torino, Roma, Napoli, Perugia, Pinarella di Cervia, qui vicino, il 16 aprile, Firenze, Bologna, e si chiuderà a Trezzo sull'Adda il 29 aprile. Allora io ti chiederei, per chiudere questa intervista, per salutarci, un messaggio ai fan e alle fan, o a chi ancora non lo è e ci sta ascoltando, per invitarli al vostro concerto, soprattutto qui di Bologna, ma in generale per un concerto dei Ministri. Perbacco, non lo so, perché io una cosa molto buffa è che non sono mai stato a un concerto dei Ministri. Beh, mi è effettivamente impossibile, come dire, perché se sono a un concerto dei Ministri non sono sul palco, però tutti quelli che poi vengono e che ci seguono ci hanno sempre detto che, come dire, è lì poi il punto è lì dove si chiude il cerchio del perché ascoltarci, semplicemente. Io, da persona invece che suona nei Ministri e che quindi vede un concerto dei Ministri, ma dall'altra parte, e quindi ovviamente non mi posso fare la recensione da solo, però posso fare una recensione al nostro pubblico, che è un pubblico straordinario. E quindi io, se fossi in un ascoltatore X, verrei a vedere un concerto dei Ministri anche solo per innamorarmi del pubblico dei Ministri, prima che dei Ministri, perché è un pubblico davvero bellissimo e secondo me fa una buonissima parte dello show, tra l'altro. Una dichiarazione d'amore bellissima questa, proprio stupenda. È vero.